Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Un altro protagonista del leggendario mondo del heavy metal, del rock molto duro, una grandissima vocalità, e noi ci abbiamo girato attorno a questo personaggio perché abbiamo raccontato la storia di Tony Iommi e quindi l'inizio dei Black Sabbath, perché è lì che stiamo per andare a parare. Poi abbiamo raccontato Randy Rhoads e quindi la rinascita di Ozzy Osbourne dopo la separazione dal gruppo, ma c'è un altro attore di cui non potevamo non parlare, perché oggi raccontiamo la storia di quello che tra l'altro ha anche degnamente sostituito Ozzy Osbourne nei Black Sabbath. In realtà ha avuto una grandissima carriera partendo da un'altra band leggendaria, è considerato una delle voci più importanti del heavy metal e diciamo è stato agevolato soprattutto all'inizio anche da un nome decisamente altisonante, perché oggi raccontiamo la storia di Dio, Ronnie James Dio. Siamo sulla costa orientale degli Stati Uniti, nel New Hampshire, a nord di New York. Qui c'è una famiglia di emigranti italiani, Padavona. Nel luglio del 42 nasce Ronnie James, è un ragazzino come tanti. In casa si parla italiano, si respira il profumo dell'Italia. Si ascoltano i dischi del tenore Mario Lanza, che era un altro figlio di emigranti italiani. La musica diventa parte dell'educazione di questo ragazzino che impara a suonare la tromba. Lui vorrebbe cantare, ma non si può cantare e suonare la tromba contemporaneamente. Avevo 11 anni quando ho avuto la mia prima band. Suonavo la tromba in quella band. Era difficile cantare e suonare la tromba insieme, ovviamente. Quindi non cantavo. Io volevo solo suonare, non volevo cantare. Ma tutti dicevano che avrei dovuto provare e alla fine ho ceduto. E così tutti cominciarono a dire: bravo, bel lavoro, dovresti fare il cantante. E quindi una storia che parte come tante storie di italiani in America, italiani integrati, ambiente cattolico. Lui è un ragazzo studioso, prende il diploma, si iscrive all'università, però sente che c'è il richiamo della musica e nella piccola cittadina di Cortland tutto gli sta un po' stretto. Lui abita lì con i genitori, però vorrebbe cambiare aria, provare a inseguire come tanti il suo sogno. Comincia a farsi delle idee anche sui grandi temi della vita, come per esempio la religione, che fino a quel momento è stato uno degli elementi della sua educazione. In realtà la religione fa crescere in lui parecchi dubbi. Da piccolo mi hanno insegnato i principi morali, così ora per me è più facile contestarli e dire: ehi, non sono d'accordo con te. Penso che ci sia qualcuno di superiore, ma che risiede in me, in te, in ognuno di noi. E tutto il resto sembra una completa perdita di tempo. Intanto però lui inizia a suonare. Siamo nel 57, la prima band si chiama Vegas King e lui adotta un nuovo nome, Ronnie James Dio. E la spiegazione però è duplice, non c'è solo spiritualità dentro. Lui ha sempre sostenuto di essersi ispirato a un boss della mafia newyorkese, Giovanni Dio Guardi, soprannominato Johnny Dio. La nonna invece opta per una versione più ecumenica e considera la sua abilità musicale un dono di Dio, quindi rientriamo nel mistico. Comunque sia andata, lui cambia cognome e anche la band negli anni successivi si adegua e diventa Ronnie Dio and the Prophets. Sorride per l'amore che mi dai. Beh, questa è veramente una chicca, meraviglioso sentire una delle voci più potenti del heavy metal che sussurra una canzone melodica in italiano, insomma una tipica canzone degli anni 60. Il pezzo viene anche pubblicato in Italia con il titolo Che tristezza senza te. Però intanto, per fortuna sua e nostra, stanno arrivando gli anni 70 e lui comincia a cambiare gusti musicali, si avvicina finalmente al rock, quello più hard, e suona in una band che si chiama Elf. È tutta un'altra musica. Qui insomma si comincia a delineare la linea editoriale, il futuro di Ronnie James Dio, che ha trovato la sua strada e comincia a sfruttare questa voce così potente, graffiante, che peraltro si adatta molto bene anche alle ballad come in piena tradizione metal. Lui non ha mai studiato canto, il suo colpo d'ala, se l'è andato a cercare da solo, lo ha riconosciuto e ha saputo come sfruttarlo al meglio. Non ho mai preso lezioni di canto, sono solo stato molto fortunato a scoprire la mia voce, ma credo soprattutto di essere stato fortunato ad avere l'intelligenza di sapere cosa farci. Voglio dire, molte persone hanno del talento, ma non sanno cosa farsene, e poi non bisogna abusarne. Gli Elf iniziano a entrare nel giro dei concerti e si trovano a aprire i concerti dei Deep Purple. Sappiamo, la vita è fatta di incontri. Nei Deep Purple c'è un chitarrista che ha un pessimo carattere, però è uno dei chitarristi più bravi e famosi del mondo, si chiama Ritchie Blackmore, e ovviamente ha dei dissapori con la band, soprattutto col vocalist del gruppo che è Ian Gillan, e lui vuole fare qualcosa di nuovo. Sente Ronnie James Dio che canta prima di lui e gli piace, e i due cominciano a parlare, decidono di dar vita a un nuovo progetto musicale. Vogliono incidere un paio di pezzi, poi si trovano in studio, l'intesa è perfetta, in 3 settimane nasce un disco e nasce un nuovo gruppo, Ritchie Blackmore's Rainbow. Il falco e il gabbiano. Così Ritchie Blackmore lascia i Deep Purple, con i quali si trova come sempre in disaccordo, porta avanti un nuovo progetto musicale, Ritchie Blackmore's Rainbow, e poi definitivamente Rainbow. Alla voce, che è una delle, come dire, delle componenti più delicate per una band heavy metal, il cantante e il chitarrista devono essere super, e c'è lui, il nostro protagonista, Ronnie James Dio, che peraltro sul palco ha una forza incredibile proprio vocalmente, e malgrado la statura, lui è bassissimo, ha anche una presenza scenica notevole. Insomma, la band sterza verso l'heavy metal che, come lo stesso cantante afferma in questa intervista, è una musica che solo in pochi sanno veramente fare. Devi voler suonare quel tipo di musica, devi voler suonare e inconsciamente pensare di stare per spaccare la testa della gente con un martello. John Bonham, per esempio, è stato il primo tra i batteristi a suonare in questo modo. L'heavy metal è iniziato soprattutto grazie a lui. Beh, sì, John Bonham, ne abbiamo parlato. Però i Rainbow non si fanno mancare niente, perché alla batteria c'è un certo Cozy Powell, che rimarrà una icona all'interno del mondo metal. La parola heavy metal si dice sia risalita a un verso di una canzone, Born to be Wild, degli Steppenwolf, però ci sono insomma molte teorie su questo. Di certo l'heavy metal ha connotazioni particolari, io direi soprattutto musicali, però come testi si parla di argomenti precisi, c'è il diavolo, il male, il sesso, l'oscurità, qualcosa che in qualche modo crei sensazioni forti. Però per quanto riguarda, insomma, il mio parere personale, che l'heavy metal soprattutto è un atteggiamento sonoro ben preciso. Misconceptions about metal are, I think, made because... Questo concetto dell'heavy metal nasce dal fatto che molti hanno paura. Siamo sempre stati dei ribelli, abbiamo sempre suonato il lato più oscuro della musica, parlando del diavolo senza cavalcare l'onda della bontà. Nel 76 esce l'album Rising, è probabilmente l'album migliore del gruppo. Le colonne sono Blackmore e Ronnie James Dio. Poi piano piano, come sempre accade nei gruppi nei quali c'è dentro Ritchie Blackmore, cominciano i problemi, i musicisti che vengono licenziati, Blackmore che prende sempre più spazio e che ne dà sempre meno ai suoi collaboratori, spesso, come dire, tende a ingelosirsi per il fatto che il cantante per forza di cose prenda il sopravvento e si impadronisca dell'affetto dei fan. Insomma, comincia a venir meno quel rapporto tra Ronnie James Dio e Ritchie Blackmore che aveva dato i suoi frutti soprattutto nei primi due album. Insomma, il progetto dei Rainbow va verso il suo epilogo, forse c'è anche il fatto che Blackmore voglia portare i Rainbow verso sonorità diverse, forse più commerciali. Insomma, Ronnie sostiene che lui sta, che Blackmore sta trasformando lo spirito iniziale con cui era nata la band. You know, and so it became that, and he wanted to be a bit more poppy. Io credo che il motivo sia stato che lui voleva diventare più pop, scrivere canzoni d'amore, storie di fantasia e cose simili. Forse voleva fare le stesse cose che facevo io. Non lo so, e non mi interessa. A me non piacevano le cose che voleva fare lui, e a lui le mie. Così ci siamo lasciati di comune accordo, senza rimpianti. Beh, in realtà questa è la versione ufficiale. Non credo che si siano lasciati proprio con una stretta di mano amichevole. E nel corso degli anni Blackmore continuerà a cambiare la formazione dei Rainbow, poi tornerà con i Deep Purple, poi se ne andrà di nuovo. E Ronnie James Dio in un'intervista è stato veramente impietoso, lo ha definito come un vampiro che succhia la musica e il talento di una persona finché non si esaurisce e poi la getta via. E Ronnie deve trovare una nuova strada da percorrere, perché la sua priorità è mantenere la coerenza delle sue scelte musicali, non deviare verso il pop, verso un successo commerciale che potrebbe farli tradire i suoi fan. Però abbiamo detto che la vita è fatta di incontri. Ronnie James Dio nel 78 riceve una telefonata da Tony Iommi. Lui, Dio, sta rimettendo in piedi una sua band, è tornato nella East Coast, lontano da Los Angeles, però i due stanno parlando di fare qualcosa assieme, di mettere su un nuovo gruppo. In realtà, e lo vedremo più tardi, insomma, i rapporti tra Tony Iommi e Ozzy Osbourne cominciano a farsi molto delicati, e i due si congedano con una frase: ne riparliamo tra qualche settimana. Però passano dei mesi e non arriva nessuna telefonata da Tony Iommi. Ronnie pensa che la cosa sia finita lì, riprende il suo lavoro, ma per lui è solo l'inizio. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia / leggenda di Ronnie James Dio, uno dei grandi attori del heavy metal. Siamo nel 1979 in questo momento. Per lui si è appena conclusa l'avventura con i Rainbow, il gruppo che aveva fondato pochi anni prima con Ritchie Blackmore. E ora Ronnie sta mettendo insieme degli amici per ricostruire una band e continuare il suo percorso musicale. E poi c'è stata una telefonata con Tony Iommi, il leader dei Black Sabbath, che sembrava aver riaperto una porta verso nuove collaborazioni. Però in questo momento il telefono di Ronnie è silenzioso, Tony Iommi non sta chiamando, e Ronnie James Dio riprende a lavorare ai suoi progetti. Circa 4-5 mesi dopo incontrai di nuovo Tony e gli altri componenti dei Black Sabbath. Non c'era Ozzy e non c'era neanche Sharon, la moglie. Mi invitarono a vedere lo studio. Stavano lavorando su alcuni nuovi pezzi e Tony mi chiese qualche consiglio su un pezzo intitolato Children of the Sea. I due si salutano, Ronnie torna a casa e il giorno dopo riceve una telefonata da Tony Iommi che gli dice semplicemente questo: ho appena licenziato Ozzy e voglio che tu prenda il suo posto. Una svolta nell'heavy metal. Del licenziamento di Ozzy Osbourne ne abbiamo già parlato, perché i Black Sabbath sono arrivati al punto che non riescono più a fare musica dal momento che Ozzy vive nel suo stato catatonico provocato dall'eccesso di alcol e di droga. È un macigno da portarsi dietro, arriva in studio, sviene, si addormenta, vomita, sta male, non è in grado di fare il cantante con i Black Sabbath, va sostituito in corsa anche per recuperare una certa vena artistica che negli ultimi tempi cominciava a latitare nel mondo Sabbath. Con i Sabbath ci fu un periodo molto positivo. Andammo subito in studio e venne fuori Heaven and Hell e l'anno dopo Mob Rules, due grandi album. La gente aveva accettato il mio arrivo e soprattutto la mia voce. Non è facile sostituire Ozzy Osbourne in una band, è un grande personaggio, una persona ingombrante da tutti i punti di vista, però Ronnie ha intanto delle grandissime doti vocali, mentre Ozzy Osbourne negli ultimi tempi non stava cantando benissimo. Poi ha una certa presenza scenica, anche se, come abbiamo detto, non è altissimo, è imponente lo stesso sul palco, è un folletto che vaga per il palco con grande carisma. E poi c'è uno dei gesti più eclatanti della storia del metal, che è il famoso gesto delle corna, la cui paternità viene contesa appunto tra Ronnie James Dio e Gene Simmons dei Kiss. Quando ero un bambino vedevo sempre mia nonna che, mentre camminavamo e mi teneva per mano, se incrociava qualcuno faceva le corna. Quando le chiedevo che cosa facesse, lei mi rispondeva che mi proteggeva dal malocchio. Quando iniziai a farlo sul palco, tutti mi hanno imitato. L'ho inventato io, anche se Gene Simmons vi dirà che lo ha inventato lui. Ma in realtà lui ha inventato solo come muovere la lingua, le scarpe e altre cose. Una cosa che mi piace molto del mondo del rock, dell'heavy metal anglo-americano, che non se le mandano a dire, mentre qua in Italia siamo tutti politicamente correttissimi. Ma un giorno io lo romperò questo silenzio. Ma comunque, già durante la lavorazione del secondo album, con i Black Sabbath cominciano nuove incomprensioni, perché anche Ronnie James Dio ha un carattere molto egocentrico, vuole essere sempre il protagonista sulla scena, e i Sabbath però d'altra parte sono una leggenda già loro. Insomma, le frizioni cominciano a apparire, e nell'82, dopo l'uscita dell'album dal vivo Live Evil, è di nuovo tempo per le separazioni, e Ronnie James Dio, dopo aver ridato linfa ai Black Sabbath, torna a lavorare sul progetto della sua band, e che questa volta si chiama ovviamente Dio, ed esce l'album Holy Diver. Ronnie James Dio finalmente dà vita al suo gruppo, libero dal dover condividere le scelte artistiche con altri componenti. Lui adesso è l'unico a decidere quello che deve fare sul palco, le scelte, i testi, e per lui c'è un ritorno a quelle atmosfere fantasy che hanno caratterizzato i suoi testi fin dall'esordio. Si parla di draghi, spettri, demoni, mentre durante il set viene fatto largo uso di laser per creare luoghi magici in cui si muove come un vero e proprio personaggio gotico. Torna ancora una volta il conflitto con la religione cattolica, forse con quella strana nonna che lo influenzava in varie maniere. Insomma, lui contesta alla religione l'aspetto impositivo nell'insegnare culti e tradizioni che lui ritiene inutili e inadeguate. Ciò che penso riguardo il paradiso e l'inferno è che il paradiso e l'inferno sono proprio qui, dove siamo noi. Ti costruisci da solo il tuo paradiso e ti costruisci da solo il tuo inferno. L'inferno, il bene, il male, Dio, il diavolo, risiedono dentro ognuno di noi. Non mi serve che un prete mi dica che sono un peccatore. Posso pregare dentro di me e ottenere gli stessi risultati. Ci sono tante religioni e alla fine crediamo tutti nella stessa cosa, cioè che abbiamo possibilità di scegliere tra il bene e il male. Quindi bisogna fare la propria scelta, e questo è quanto per me. Insomma, il modo di vivere la religione, il rapporto con Dio, con entità superiori, è sempre stato uno dei temi ricorrenti nel mondo del heavy metal, che è un genere musicale che peraltro segue comunque determinati canoni stilistici, visivi, di approccio. Nel frattempo la carriera dei Dio, cioè della band del nostro protagonista Ronnie James Dio, va avanti fino agli anni 2000. Le cose stanno cambiando, cambia il mondo della musica, arriva un nuovo soggetto che costringe il pubblico non solo a ascoltare ma anche a vedere chi sta cantando. Insomma, arriva MTV con il suo bombardamento di video musicali, arrivano nuovi gruppi che spesso basano il loro successo sull'immagine più che sulla musica, e Ronnie James Dio non ha paura di dire ciò che pensa. MTV ha ucciso l'heavy metal. All'improvviso hanno iniziato a nascere tutte queste nuove band, e tutto girava intorno al loro look, al numero di feste che facevano, a quante 14enni riuscivano a rimorchiare alla fine dello show. La loro musica era spazzatura e hanno distrutto tutto quello che noi altri avevamo creato. Prendi i Poison, per esempio. Le cose che pubblicavano, i capelli ossigenati, il trucco. A cosa serviva tutta quella roba? Questo non è il metal. What's that all about? That's not metal. Che Dio lo benedica, anche se Ronnie James, io non potevo immaginare veramente la picchiata verso il basso che ha fatto, l'approccio tra musica e immagine e 14 anni negli anni che sarebbero arrivati, per sua fortuna non li ha visti. E la carriera di Ronnie James Dio prosegue, c'è spazio per una reunion con i Black Sabbath nel 92, poi un sacco di progetti musicali con persone che in qualche modo lui rincontra più volte. Addirittura nel 2006 c'è un momento con una band che si chiama Heaven and Hell, dove ci sono dentro i Black Sabbath, cambiano i nomi, la sostanza rimane la stessa. In fondo Ronnie James Dio è stato per tutta la sua carriera un personaggio con cui da un lato era difficile condividere le scelte artistiche per il suo ego prorompente, però dall'altro evidentemente era proficuo collaborare. Nel 2009 la moglie di Ronnie, Wendy, annuncia ai fan che il cantante ha un cancro allo stomaco e tutti i colleghi con cui negli anni ha condiviso il palco gli si stringono accanto, lo accompagnano in un percorso purtroppo breve che lo porta alla morte il 16 maggio 2010. Ronnie fino all'ultimo lavora per preparare il tour, dimostrando di volere combattere contro il destino, quello che per tutta la sua carriera lo aveva aiutato, facendogli incontrare i grandi musicisti con i quali ha gettato le fondamenta dell'heavy metal, che ancora oggi lo ricorda, lo venera al di là del nome come un dio. Tra i tanti messaggi che sono stati lasciati in suo ricordo spicca proprio quello di Ritchie Blackmore, quello che ha creduto in lui dal primo incontro. Ronnie era una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto. Abbiamo vissuto dei momenti fantastici insieme. Ronnie amava quello che faceva, fare musica e dare tutto sul palco. Amava i suoi fan. Era un uomo generoso e metteva tutto se stesso per aiutare gli altri. Posso dire sinceramente che è stato un vero onore suonare al suo fianco per tutti questi anni. La sua musica vivrà per sempre. L'uomo con la voce magica è ora una stella tra le stelle. È stato un vero professionista. Mi mancherai tanto, Ronnie, mio grande amico. Riposa in pace. E perfino il pessimo carattere di Ritchie Blackmore di fronte alla morte si ammorbidisce e ricorda questo grande personaggio, capace di grandi colpi d'ala e capace in qualche modo di dare delle connotazioni precise all'heavy metal, perché Ronnie James Dio è stato ed è una delle colonne di quel genere. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoilgabbiano@radio24.it delle storie che volete che noi si racconti, e poi potete seguirmi, interagire con me sul sito di Radio 24, sui miei social, Facebook, Twitter, su quelli di Radio 24, del Falco e il Gabbiano, insomma, se mi cercate mi trovate. Ciao, a lunedì.